Fiat, gli 80 euro in busta paga avranno un effetto sui consumi, ma minimo. Le stime di crescita dell'Istituto di Statistica della Commissione Europea ferme allo 0,6%. Equilibrio fragile, dice il presidente della Consob. Renzi intanto va all'attacco di Grillo, è uno sciacallo, è in corso un derby tra rabbia e speranza, dice il Premier. Sul bonus fiscale, solo l'antipasto. Nessuna trattativa tra tifosi e polizia, a dirlo tanto il ministro dell'interno quanto l'ormai famoso capo ultra Gennaro De Tommaso. Prandelli dice parta una grande riflessione, c'è il rischio che FIFA o UEFA ci fermino. In Ucraina si moltiplicano i fronti, Kiev ha inviato rinforzi a sud, a Odessa dove la tensione sta salendo, tensione che resta alta nelle zone orientali l'11 maggio a Donetsk che si vota per l'indipendenza. Dopo l'alluvione e le vittime a Senigallia ci sono ancora 300 interventi nella lista d'attesa dei vigili del fuoco. Il governo prepara provvedimenti, timori negli stabilimenti balneari per la stagione estiva in arrivo. Per 6 italiani su 10 è il settore alimentare quello che meglio rappresenta il nostro paese nel mondo, ma i consumi interni crollano e dall'inizio della crisi hanno chiuso 12.000 piccole imprese del settore. Si apre oggi Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione, con un occhio sull'Expo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. È una giornata che si sta caratterizzando, almeno in queste ore, per un'attenzione concentrata sul dibattito economico. Ci sono state questa mattina le previsioni dell'Istat e poi quelle della Commissione Europea, mentre il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è intervenuto nel suo ruolo di segretario del PD, appunto alla direzione del suo partito, parlando appunto anche delle questioni economiche. Iniziamo dunque da qua, dalla parte italiana, con la nostra Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Campagna elettorale sempre più nel vivo con Matteo Renzi che attacca Beppe Grillo, è uno sciacallo, scommette sulla disperazione, dice il Premier, loro sono la rabbia, noi ridiamo speranza all'Italia, e lo dice anche alla direzione nazionale del PD a 20 giorni dalle elezioni europee. Il segretario e anche Premier lancia la mobilitazione straordinaria dei democratici che il 17 e il 18 maggio saranno con 10.000 banchetti nei comuni d'Italia. Riguardo agli 80 euro, il Premier precisa, non sono una misura elettorale ma solo un antipasto, e a questo proposito sentiamo Renzi. A me pare che sia evidente la contraddizione tra chi quegli 80 euro li sente nella propria quotidianità, perché si rende conto che con 1.100 euro, se arriva a 1.180, gli cambia la vita di tutti i giorni, e chi invece vive in una realtà diversa, parallela, che considera 80 euro sostanzialmente una mancia. È un tema su cui sarebbe affascinante stare ore a discutere. 11 milioni di italiani hanno questo aspetto. Basta? No, non ci basta. Ecco, questa era proprio la risposta a Carlo De Benedetti che questa mattina è intervenuto a Mix 24. Poi Renzi dice no all'ottimismo dei sondaggi, per il Premier portano sfortuna, anche se Simone devo dire non usa questa parola, usa una parola un po' più neofita, sfiga, dice Renzi, bisogna mettersi a testa bassa fino alla fine, il vero sondaggio è il risultato del 25 maggio, e sull'immigrazione il Premier difende Mare Nostrum, ha permesso di non contare i morti in fondo al mare e di arrestare 207 scafisti. A te. E anche di immigrazione torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno. Dunque, siamo sull'Italia, tra un attimo andremo alle previsioni della Commissione Europea, rapporto di primavera, e però prima sentiamo che cosa ha detto questa mattina l'Istat. Una crescita inferiore al previsto, una disoccupazione al palo, ma anche una ripresa di investimenti e consumi trainati questi ultimi, seppur in misura minima, dal bonus di 80 euro. È un quadro a luci e ombre quello tracciato dall'Istat nelle sue previsioni economiche. Il PIL crescerà dello 0,6% nel 2014, dell'1% nel 2015 e dell'1,4% nel 2016, percentuali, seppur di poco, inferiori a quelle stimate dal governo negli ultimi documenti ufficiali, anche se proprio ieri sera il ministro dell'economia Padoan ha detto che sulla ripresa economica ci saranno sorprese a fine anno, ma anche secondo l'Istat segnali di inversione di tendenza ci sono, e questi vengono dagli investimenti con una ripresa significativa a partire da quest'anno e dai consumi che per la prima volta in 3 anni tornano a salire. Una moderata ripresa nel 2014, più 0,2 per arrivare al più 1% nel 2016, su cui incidono, scrive l'Istat, come minima spinta gli 80 euro in più in busta paga. L'effetto del bonus è dunque minimale perché le famiglie torneranno a spendere anche per un rinnovato clima di fiducia sulla situazione economica del paese. Nulla da fare invece per quanto riguarda il mercato del lavoro, con una disoccupazione che anche nel 2015 rimarrà sopra il 12%. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro da Roma, sentiamo invece il quadro che ci è stato consegnato oggi da Bruxelles sulla nostra economia, in diretta appunto da Bruxelles, il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Beda, buongiorno. Sì, buongiorno. Che cosa ci dicono le previsioni di primavera dunque? Ma mi sembra che la Commissione abbia tratteggiato un quadro relativamente ottimista della situazione italiana. Prima di tutto la Commissione nota che dopo 9 trimestri consecutivi di contrazione dell'economia, la congiuntura dovrebbe riprendersi nel corso di quest'anno e la Commissione prevede una ripresa dello 0,6% quest'anno e dell'1,2% l'anno prossimo. Questi dati sono leggermente più pessimisti di quelli del governo, a bene o male in linea con quelli dell'esecutivo italiano. L'altro aspetto riguarda la politica economica. Su questo fronte la Commissione è rimasta molto cauta oggi, perché in questo momento Bruxelles non ha ancora le idee chiare su quello che intende fare il governo. Certo, il governo ha deciso di tagliare il cuneo fiscale e ha deciso di tagliare la spesa pubblica, due decisioni che la Commissione accoglie positivamente, ma evidentemente il governo ha anche deciso di rinviare di un anno il pareggio di bilancio, il pareggio strutturale di bilancio. La Commissione non si è espressa su quest'ultimo punto e si esprimerà probabilmente in giugno, quando avrà finito di analizzare il documento economico e finanziario mandato dall'Italia a Bruxelles in aprile e quando pubblicherà le proprie raccomandazioni paese. Sarà in quel momento lì, in giugno, quando il governo e l'Italia capiranno se la politica economica decisa nel corso delle ultime settimane è accettabile da parte della Commissione europea. Grazie al nostro Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, per questi aggiornamenti. L'altra vicenda sulla quale ci si sta concentrando in queste ore è la vicenda di quello che è successo all'Olimpico, il punto della situazione. La finale di Coppa Italia diventa sempre di più un caso politico. Testimone diretto di quanto accaduto sabato sera all'Olimpico, anche il premier Renzi stamattina annuncia misure per riportare le famiglie allo stadio, ma a fine campionato e dopo le europee, per evitare strumentalizzazioni. Tra le ipotesi allo studio, fa sapere il ministro dell'Interno Alfano, c'è quella di estendere a vita il DASPO, il divieto di assistere alle manifestazioni sportive per i tifosi violenti. Alfano esclude che sabato ci sia stata una mediazione con uno dei capi della tifoseria napoletana per far giocare la finale dopo gli scontri nel prepartita. Anche il capo degli ultra nega, ma la presunta trattativa alimenta comunque polemiche e proteste. A dirsi indignata è soprattutto la vedova di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia ucciso a Catania da un ultra. È inaccettabile, dice la donna, che davanti alle massime autorità dello Stato le forze dell'ordine si siano confrontate con una persona che indossava una maglietta che inneggiava all'assassino di mio marito. A protestare stamattina sono anche i genitori di Ciro Esposito, il tifoso napoletano gravemente ferito all'esterno dell'Olimpico da un capo ultra della Roma. Soltanto oggi ho saputo che mio figlio si trova in stato di arresto e viene trattato come un delinquente. Sono arrabbiatissima, dice la madre del giovane, al quale la Camera Penale ed un avvocato di Napoli oggi hanno deciso di offrire assistenza legale gratuita. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su quei fatti è intervenuto questa mattina, ospite di Alessandro Milan, il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Sentiamo. Evidentemente lasciare delle tifoserie che abbiamo visto difficili da governare e da guidare, libere per la città, c'era il rischio che la città ne avesse delle conseguenze molto negative. E quindi la valutazione fatta dal prefetto di Roma è stata quella di far giocare la partita. Certo lascia con sentimenti contrastanti questo tipo di decisione, nel senso che punizione rispetto a comportamenti di violenza, anche se extra stadio, è il sentimento che prevale nel mio animo. Sì. quando ho ascoltato le parole del ministro Alfano di allontanare a vita dagli stadi coloro che hanno comportamenti violenti, io sinceramente mi sono trovato d'accordo. Che il calcio, che è uno degli sport principali, e per me come amministratore lo sport è un inno alla qualità della vita, al benessere, tutto questo non può essere persone che hanno la testa vuota, trasformato in violenza, dolore, rischio di avere addirittura dei lutti, dei morti. Dibattito che si concentra intorno al mondo del calcio e fa discutere, tra le altre cose, un video diffuso dal Movimento 5 Stelle e pubblicato su alcuni siti web che mostra il sindaco di Torino Piero Fassino rispondere con il dito medio alzato ad alcuni tifosi del Torino che lo stavano contestando allo stadio Filadelfia, dove ieri è stato ricordato il 65esimo anniversario della strage di Superga. Tutto materiale, insieme così come con la vittoria della Juventus in campionato per tutti i convocati, in onda a partire dalle 14. Noi adesso andiamo in Ucraina. Gli scontri sarebbero scoppiati in mattinata. Sloviansk è assediata da settimane. Ieri l'esercito ucraino ha sbarrato le principali vie d'accesso alla città. L'offensiva di Kiev era attesa. Continuano le operazioni antiterrorismo nella parte orientale del paese, aveva detto il primo ministro. A tre giorni dai morti di Odessa, tutti filorussi, Yatsenyuk ha accusato la Russia di perseguire un piano per distruggere l'Ucraina e la sua sovranità. Ieri sera diverse migliaia di militanti ucraini ultranazionalisti si sono riuniti nella città che affaccia sul Mar Nero per marciare in corteo fino alla sede regionale della polizia, accusata di non aver impedito i disordini di venerdì, chiedendo e ottenendo il rilascio degli ucraini fermati dopo gli scontri. I manifestanti si sono poi diretti verso la casa dei sindacati, teatro degli incidenti tra filorussi e nazionalisti. Lì hanno issato una nuova bandiera ucraina che era stata tirata giù e bruciata dai filorussi. Molti osservatori hanno collegato l'accordo siglato con il Fondo Monetario il 30 aprile, 17 miliardi di aiuti, di cui oltre 3 nella immediata disponibilità di Kiev, con il pugno duro sfoderato da Yatsenyuk negli ultimi giorni. L'aiuto del fondo è condizionato a revisioni e al rispetto dei criteri stabiliti. Tra questi criteri ci sarebbe anche il controllo di tutte le regioni del paese. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora una notizia che arriva dall'estero, ed è una brutta notizia perché con un video di 57 minuti i ribelli integralisti di Boko Haram hanno rivendicato il rapimento in Nigeria delle oltre 200 liceali. A parlare il capo del gruppo estremista Abubakar Shekau: ho rapito le vostre figlie, dice nel video. Veniamo e torniamo all'Italia con la cronaca e con la situazione a Senigallia. Corsa contro il tempo a Senigallia dopo l'alluvione nelle Marche che ha ucciso 2 persone. Acqua e fango portati dal Misa invadono ancora capannoni, hotel e ristoranti, e per i vigili del fuoco inviati sul posto da 5 regioni comincia ora il lavoro più complicato: prosciugare i locali prima che il fango si solidifichi. Nei seminterrati, garage, cucine degli alberghi, sotto il livello del piano stradale ci sono 2-3 metri d'acqua. Marco Lion, responsabile ambiente Touring Club Italia. Qui a Senigallia è stata toccata un'area residenziale degli anni 30 e un'area residenziale degli anni 70. Una parte molto popolosa della città è sott'acqua. Lungo la valle c'è stato, il disastro più grande. Senigallia di nuovo connessa con il mondo grazie al ripristino delle utenze elettriche e delle comunicazioni telefoniche, ma il resto delle Marche affronta ancora emergenze, frane, smottamenti, e comincia la conta dei danni per la richiesta dello stato di emergenza e calamità. Il Misa, come gli altri fiumi delle Marche, sono fiumi che hanno un carattere torrentizio. Il problema del dissesto idrogeologico della nostra regione, anche perché le nostre colline sono facili da franare perché sono fatte d'argilla, mentre prima ci voleva una settimana prima di un'alluvione, adesso basta un giorno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo a fare un punto sulla situazione a Senigallia più avanti nella trasmissione. Sentiremo il sindaco della città e sentiremo anche il presidente di Assobalneari Marche per capire un po' come gli stabilimenti si preparano al fatto che tra poco inizia l'estate. Naturalmente i danni dell'alluvione sono stati tantissimi. Restiamo sulla cronaca con una storia che arriva da Firenze. È stato trovato alle porte di Firenze il il corpo di una donna legata e non è la prima volta. Ubaldo Cianciulli, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. La notizia è che stamani una persona ha trovato il corpo di una giovane donna nuda attaccata a una sbarra che delimita l'accesso a una strada non asfaltata in località Ugnano, tra Firenze e Scandicci, sotto un cavalcavia. Ha avvertito la polizia che sta ancora eseguendo tutti i necessari rilievi e purtroppo il timore è che ci possa essere la mano di un serial killer, proprio perché un anno fa, a fine marzo, sotto lo stesso cavalcavia era stata trovata una prostituta sempre attaccata con dei nastri a una transenne. In questo caso la donna fu violentata e derubata, ma non uccisa, e poter raccontare tutto. E sempre nella stessa zona, nell'ultimo anno, ci sono state altre due aggressioni a donne. In un caso la vittima fu salvata da alcuni vicini, mentre nell'altro fu trovata sempre legata a una sbarra, terrorizzata ma viva. Gli abitanti di Ugnano raccontano anche diversi episodi di aggressione a prostitute negli ultimi anni, quindi effettivamente si potrebbe trattare di un'escalation di delitti molto simili fra loro, che questa notte potrebbe essere invece scaturita in un vero e proprio omicidio. E da Firenze è tutto, Lignano Studio. Grazie al nostro Ubaldo Cianciulli. Abbiamo parlato di economia in apertura, torniamo adesso sull'economia e veniamo alla relazione annuale della Consob, l'autorità di controllo sui mercati finanziari e sulla borsa. L'ha seguita Paolo Piacenza per noi. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Per il presidente della Consob Giuseppe Vegas la ripresa c'è e gli indici della borsa italiana lo confermano, ma l'equilibrio è fragile, quindi dopo gli sforzi sul risanamento dei conti pubblici occorre soprattutto puntare sulle riforme strutturali. Vegas oggi ha pronunciato la sua relazione, diciamo, di metà mandato, è stato eletto nel 2011, una relazione che coincide con i 40 anni dell'ente che vigila sui mercati, e nella sua relazione ha indicato diversi spunti, tanti temi toccati, oltre naturalmente al quadro macroeconomico, l'opportunità di rilanciare le privatizzazioni, ma non per fare cassa, dice Vegas, quanto piuttosto per rilanciare la crescita, il sostegno al progetto di una unione finanziaria sul modello dell'unione bancaria europea, ma con un'autorità più forte, una vigilanza unica sui mercati, dice sempre Vegas, e poi l'opportunità di attrarre gli investitori esteri che sono in crescita, ma dice il presidente della Consob, hanno di fronte ostacoli, e su questo punto ha indicato la necessità innanzitutto di semplificare la normazione e le regole fiscali e di trovare delle vie di armonizzazione all'interno dell'Unione Europea. Vegas ha rivendicato la riduzione dei costi di Consob del 12% e dunque anche dei contributi a carico delle imprese, meno 16%, e ha anche risposto indirettamente alle polemiche che lo accusano di avere troppo potere se in relazione ai limiti, al fatto che non si manchi un commissario al collegio di tre commissari della Consob, ha detto il governo può nominarlo quando vuole, noi siamo qua, intanto andiamo avanti. E da Palazzo Mezzanotte è tutto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Per l'Istat gli 80 euro in busta paga avranno un effetto sui consumi ma minimo. Le stime di crescita dell'Istituto di Statistica e della Commissione Europea ferme allo 0,6%. Poco fa le dichiarazioni del ministro Padoan, che dice, confermano queste stime, che l'Italia migliora. Nessuna trattativa tra tifosi e polizia, a dirlo tanto il ministro dell'Interno quanto l'ormai famoso capo ultra Gennaro De Tomaso. Parla il Antonino Speziale, condannato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. Sono addolorato per la famiglia, ma io sono innocente. In Ucraina si moltiplicano i fronti. Kiev ha inviato rinforzi ad Odessa, dove la tensione sta salendo, tensione che resta alta anche naturalmente nelle zone orientali. E ora parliamo di alimentare italiano, perché si apre oggi un'importante fiera, il Salone Internazionale dell'Alimentazione, Cibus a Parma, dove si trova Stefano Totoro. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi agli ascoltatori. Ci sono 2700 aziende alimentari ad esporre qui alla 17ª edizione di Cibus. Sono attesi nei 4 giorni di fiera oltre 10.000 operatori commerciali provenienti da tutto il mondo. Questo è dunque qualche dato per sottolineare l'importanza di questa fiera dell'alimentare italiano. Oggi ha aperto i battenti in un momento, bisogna dire, non facile per il settore dell'alimentare, perché se da una parte, come ha sottolineato anche la DOCSA che ha presentato una indagine oggi, 6 italiani su 10 considerano l'industria alimentare il settore più rappresentativo del Made in Italy, dall'altra parte La fotografia scattata da Federalimentare sui consumi mostra una stagnazione sul mercato interno, con una flessione nel 2013 del 4%, tendenza che si conferma anche per i primi mesi del 2014, flessione però controbilanciata dall'altra parte dai dati sull'export in lieve aumento. I consumi si augurano che i rappresentanti del settore potrebbero essere rilanciati con misure come il bonus di 80 euro previsto dal governo. Infatti Federalimentare ha calcolato che grazie a questo provvedimento potrebbe esserci un aumento dei consumi lievissimo dello 0,5%. Tantissime le novità che vi racconteremo in questi giorni qui da Cibus. Per il momento è tutto, a voi. Grazie al nostro Stefano Totoro, e vi ricordo che anche Effetto Giorno sarà in onda da Cibus nella giornata di mercoledì prossimo. Da un settore importantissimo per la nostra economia ad un altro settore importante, quello del turismo. Francesca Rossi Bollettini, presidente di Assobalneari Marche, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Ma per parlare con lei della situazione a Senigallia, perché insomma abbiamo raccontato dell'alluvione, abbiamo raccontato delle vittime e forse non abbiamo raccontato abbastanza della situazione di una città che vive molto sul turismo e sul turismo balneare soprattutto. Vorrei capire da lei che cosa state raccogliendo dal territorio, com'è la situazione. Sì, diciamo che è una situazione veramente drammatica, perché pensiamo che lo stato di allerta vi è quando ci sono 50 mm di pioggia, abbiamo toccato invece i 180 mm, quindi quasi quattro volte, quindi una situazione sicuramente drammatica. Stiamo raccogliendo i primi dati, diciamo che tutti gli imprenditori balneari sono in uno stato di veramente terrore, perché comunque le strutture erano già a pieno regime per il ponte che abbiamo avuto, per i vari ponti che abbiamo avuto, quindi stiamo raccogliendo proprio in questo momento tutti i dati dei danni. Abbiamo registrato purtroppo a Porto Recanati uno stabilimento che è stato distrutto completamente, cioè portato via. Avete un'idea di massima, state raccogliendo i dati, è chiaro, un'idea di massima della dimensione del danno nell'ordine delle decine, delle centinaia di milioni? Sicuramente nell'ordine dei centinaia di milioni, ma ecco, dicevo che appunto i dati li stiamo raccogliendo oggi, perché ieri c'era ancora uno stato di presidio della protezione civile, continuava a piovere, quindi oggi mandiamo i nostri a fare tutti quanti i rilevamenti fotografici, ad avviare tutte le procedure per richiedere poi insomma il risarcimento per i danni. Senta, chiederete naturalmente risarcimento danni, ci sono altre richieste da questo punto di vista? Ieri abbiamo avuto a Senigallia anche il Premier Matteo Renzi, che ha verificato insomma lo stato di calamità assoluta, quindi ci aspettiamo ecco un aiuto concreto. Grazie, e semmai torneremo a consultarvi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. A proposito di turismo, cominciano ad arrivare oggi a Pompei gli uomini della squadra del generale Giovanni Nistri, nominato a supporto del grande progetto Pompei per mettere in sicurezza l'antica città romana. Un progetto complesso, nessun tabù verso i privati, commenta il generale con Radio 24 in quella che è la sua prima intervista, l'ha rilasciata Raffaella Calandra. I lavori di messa in sicurezza per le regioni terza e nona si dovrebbero concludere entro il febbraio del 2015, sono state recentemente aggiudicate in via definitiva i lavori di messa in sicurezza per la Regio Sesta. Dovranno essere prossimamente avviate le messe in sicurezza per le restanti regiones e per i fronti di scavo. Si è infine partito un progetto unitario e progressivo di messa in sicurezza di tutta l'area, che si affianca anche al bandi per il cosiddetto piano della conoscenza, cioè uno studio della situazione anche dei singoli manufatti, che consentirà poi di procedere con la manutenzione programmata. Se lei dovesse dire qual è lo stato oggi della città di Pompei e quali possono essere i nemici anche? La necessità di una manutenzione ordinaria, l'eliminazione del rischio idrogeologico complessivo e la necessità di una migliore organizzazione complessiva del personale. L'altro rischio è che non si voglia rispondere con tempi estremamente ridotti, non sempre la fretta è la migliore consigliera. Saluto una voce nota di Radio 24, Giampaolo Musumeci. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, lo chiamiamo perché vogliamo parlare con lui di immigrazione. È uscito da poco un libro molto bello, consigliato, che è Confessione di un trafficante di uomini, che è scritto con Andrea Di Nicola. Ed è di fatto il racconto, anche dalla viva voce dei protagonisti, di come effettivamente dietro l'arrivo dei migranti in Italia ci sia un vero e proprio traffico di esseri umani con delle organizzazioni transnazionali anche di grandissime dimensioni. In questi giorni, Giampaolo, c'è molta polemica intorno all'operazione Mare Nostrum, quella che consente il salvataggio dei migranti in mare. C'è chi, come la Lega per esempio, dice è un aiuto di Stato agli scafisti questa operazione, c'è chi dall'altra parte la difende a spada tratta, come ha fatto oggi anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. È veramente un'operazione di questo tipo, Giampaolo, una sorta di assicurazione per i trafficanti di uomini che il viaggio andrà a buon fine? Ma è molto difficile rispondere a questa domanda, dovremmo avere un tanto più tempo, cioè una finestra temporale un po' più ampia per capire come evolverà l'estate. Quello che possiamo dire di certo è che i trafficanti, non gli scafisti, badate bene, gli scafisti sono l'ultimo anello. Quando dicono presi 210 scafisti è come se venissero arrestati 210 pusher, quindi pesci piccoli. Io e Andrea Di Nicola abbiamo incontrato i pezzi grossi. I pezzi grossi sono quelli che stanno nelle retrovie, sono quelli che organizzano il viaggio, che magari non sono nemmeno nella costa libica. Ebbene, certamente loro sono molto bene a conoscenza dell'operazione Mare Nostrum e siccome sono imprenditori, criminali, ma sono imprenditori perché gestiscono un'agenzia di viaggi, che è criminale ma è un'agenzia di viaggi, sicuramente sfruttano le opportunità. In questo senso bisogna dire che Mare Nostrum è un'opportunità perché da qualche intercettazione, se non erro, è venuto fuori che gli scafisti sapevano perfettamente che a un certo punto avrebbe incontrato le navi della Marina Militare Italiana. Perché il sistema Giampaolo funziona così, che i trafficanti vengono pagati nel momento nel quale i migranti approdano sulla costa sulla quale vogliono arrivare. Ma in realtà dipende dal trafficante. Alcuni trafficanti si fanno pagare in anticipo il viaggio, altri lo fanno solamente una volta che i migranti sono giunti a destinazione. E qui fa anche vedere, no, come l'offerta di questa agenzia di viaggi criminale sia diversificata e si adatta un po' anche alle esigenze dei clienti in qualche modo. Quanto è vasto, Giampaolo, e anche qua naturalmente è molto difficile rispondere, però ti chiedo una valutazione breve, il fenomeno dei falsi profughi, per così dire. Noi abbiamo spesso raccontato che molti dei migranti che arrivano sulle nostre coste sono profughi, appunto. Quanto c'è di vero in questi richiedenti asilo, per così dire, e quanto c'è di gente che si spaccia per richiedente asilo? Ma allora, innanzitutto permettimi solo una prima osservazione. Io e Andrea Di Nicola troviamo assurdo che dei richiedenti asilo, dei potenziali richiedenti asilo debbano rivolgersi ai trafficanti di uomini, cioè noi troviamo che la risposta europea da questo punto di vista sia assolutamente limitata e scarsa. Il fenomeno dei falsi profughi esiste e nel libro noi tratteggiamo uno dei trafficanti di uomini, ne abbiamo incontrati 12. Uno di questi è un congolese che vive a Kampala in Uganda e praticamente cambia l'identità di congolesi, Congo Brazzaville o Congo Kinshasa, e fa in modo di ritagliare delle storie personali fatte di guerra, disperazione e di fuga da guerra e morte, in modo che una volta a Kampala l'UNHCR li possa riconoscere, l'agenzia dei rifugiati dell'ONU, appunto come tali. Per cui questo escamotage esiste ed è praticato da tantissimo tempo. I trafficanti sanno bene che appiccicare l'etichetta di rifugiato e richiedente asilo o di chi possa godere di protezione internazionale è ovviamente spalancare la porta dell'Europa per questi migranti. Quindi è certamente una delle tecniche utilizzate. Quantificarle e offrire statistiche è veramente difficile, anche perché chi è molto bravo poi entra come rifugiato, anche se non lo è, e noi non lo sapremo mai. Grazie a Giampaolo Musumeci. Vi ricordo il libro Confessioni di un trafficante di uomini con Andrea Di Nicola, edito Chiare Lettere. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il potere d'acquisto delle famiglie nel 2014 torna positivo dopo 6 anni consecutivi in calo, lo dice l'Istat. Gli 80 euro avranno un impatto sui consumi, ma minimo, prevede l'istituto. Renzi commenta, il bonus in busta paga è solo l'antipasto per Padoan, le misure richiedono tempo, ma sono quelle giuste. Nessuna trattativa tra tifosi e polizia, a dirlo tanto il ministro dell'interno, quanto l'ormai famoso capo ultra Gennaro De Tommaso. In Ucraina ancora altissima la tensione. Kiev ha inviato rinforzi a sud, a Odessa, dove la tensione sta salendo, tensione che resalta nelle zone orientali. L'11 maggio a Donetsk si vota per l'indipendenza. Torneremo a parlarne più avanti, intanto la borsa. Borse in diretta. Brutta giornata, 1.5 punti di calo per il FTSE MIB, altrettanto per il FTSE OCSE, negativa anche il resto d'Europa. Francoforte cede l'1,47%, Parigi l'1,20%, Londra oggi è chiusa. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci sono solo due titoli in positivo, Terna più 0,36% e Ferragamo che in realtà è in perfetto pareggio. Che succede? Tutti gli altri sono negativi, la borsa risente delle forti tensioni in Ucraina, ma anche del rallentamento dell'attività manifatturiera in Cina, con un indice stimato da HSBC che ad aprile ha registrato il quarto calo consecutivo. Due fattori che pesano su tutti i listini europei, in particolare su Milano, dove sono deboli le banche. Deboli le banche, deboli ancora una volta le popolari, vedo. Sì, Popolare di Milano fa meno 2,2%, questo nonostante una partenza al rialzo nel primo giorno dell'aumento di capitale da 500 milioni che parte per l'appunto oggi. Debole anche il Monte dei Paschi di Siena, che perde oltre il 3% nel giorno in cui sono state raggruppate le azioni con il rapporto di 1 a 100. Giù anche le Popolare Emilia Romagna, questo mentre il mercato si interroga sull'eventualità di un aumento di capitale domani è in calendario il consiglio d'amministrazione della Popolare sulla trimestrale. E grazie Isabella Tasso di Radio Corriere del Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va? Potete immaginare, situazione decisamente complicata, ma tanto lavoro da parte dei volontari, tanto lavoro dei proprietari e delle nostre forze amministrative e civiche. Siete già riusciti a quantificare i danni, almeno, come dire, a spanne? Ancora siamo solo impegnati nell'emergenza, secondo me va affrontata così. Poi avremo un momento di respiro e ci dedicheremo a questo, ma i danni ovviamente sono ingenti, ha colpito quasi 20.000 persone, quindi tante attività importanti, patrimonio pubblico in gran parte compromesso, quindi c'è ovviamente tanto da quantificare. 20.000 persone colpite? Circa sì, quindi metà della un po' meno forse della metà della nostra popolazione. Brevissimamente, in 10 secondi, sindaco, è solo la bomba d'acqua, per così dire, o c'è stata anche incuria del territorio negli anni? Ma io penso che l'incuria del territorio sia un concetto di default di questa nazione, cioè, quindi non è che lo do ormai come elemento scontato, la manutenzione dei fiumi non viene fatta in modo adeguato, c'è un'antropizzazione assolutamente esagerata, c'è una poca attenzione alla manutenzione dei campi e produce un elemento ormai proprio da certificato. In questo caso però ha una situazione che è consolidata. La quantità d'acqua, lei dice, è stata, è è stata enorme. Abnorme. Allora, la ringrazio, grazie a Maurizio Mangialardi, sindaco grazie di Senigallia. A voi, grazie, torneremo grazie a sentirla. Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma, ben ritrovato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, anche con lei dobbiamo essere piuttosto brevi, le chiedo solamente questo. Oggi Mosca dice, stiamo parlando dell'Ucraina naturalmente, ci vuole una risposta adeguata, senza partito preso, oppure ci saranno conseguenze distruttive per la pace, la stabilità e lo sviluppo democratico addirittura dell'Europa. Vede un rischio, e torniamo sulla solita domanda, di un'estensione del conflitto? No, scusate, al momento assolutamente no. Ovviamente la diplomazia russa fa il suo gioco e alza la posta in palio. Il conflitto non credo che si internazionalizzerà oltre il livello che ha già attualmente raggiunto, con una presenza sotto traccia e non ufficiale, non soltanto di russi sul terreno, ma a quanto pare, e lo dicono i servizi tedeschi, anche di elementi del sistema di sicurezza statunitense. È auspicabile comunque che la spirale a un dato momento si interrompa, e a tutto questo è indispensabile il raggiungimento di un accordo tra le parti sul terreno. Cioè, io vedo molto più utile un accordo tra le parti locali piuttosto che uno che intervenga a un livello più elevato internazionale, diciamo, di paesi sponsor o grandi potenze. Grazie a Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma, per i suoi commenti sempre puntuali. È il momento di Daniele Biacchessi, che ci riporta le vicende dell'Olimpico. Credo che sia senza precedenti da qualsiasi parte, perché uno che aggredisce prima comincia con questa azione di provocazione nei confronti dei Puma, lì c'è la reazione violenta da parte dei tifosi del Napoli che lo rincorrono, lui cade e a questo punto, per sottrarsi all'aggressione che si andava a concretizzare nei suoi confronti, comincia a sparare. Diciamo subito che la sparatoria prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli non è avvenuta all'interno dello Stadio Olimpico, ma in via Tor di Quinto a Roma. Non è questione topografica, ma di sostanza. Cioè, l'ultraromanista Daniele De Santis, già noto alle cronache per fatti di violenza sportiva, ha sparato contro i tifosi napoletani dopo averli attesi per ore, seguiti, provocati fuori dallo stadio ed esattamente nel luogo in cui era certo di trovarli. E il suo atto si dipana nella logica dei fronti contrapposti, soprattutto degli affari che si nascondono dietro alle attività a volte poco lecite delle curve. La gestione dei biglietti allo stadio, lo spostamento di tifosi nelle trasferte, merchandising, spaccio di droga. Ciò vuol dire che le autorità competenti in materia di ordine pubblico a Roma potevano ampiamente prevedere che, vista l'inimicizia tra tifosi romanisti e napoletani, fuori o dentro lo stadio olimpico qualcuno avrebbe provveduto a realizzare una sorta di resa dei conti. Quindi la politica degli annunci ha fallito nella sua sostanza, perché agli annunci fatti a caldo, sempre dopo un evento che coinvolge le curve del calcio, non sono seguite misure stabili in grado di prevenire le violenze. E nella politica degli annunci ci metto dentro anche questo piano del governo. DASPO oltre i 5 anni, DASPO a vita, divieti preventivi di ingresso allo stadio, vigilanza raddoppiata sul tifo organizzato e sulle infiltrazioni criminali. Il piano intende imitare certamente quello inglese degli anni 80, pensato dal governo a guida Thatcher contro gli hooligan del Liverpool e di altre squadre, ma le storie delle curve britanniche e italiane sono diametralmente opposte. Da almeno 20 anni le curve italiane hanno subito una mutazione genetica molto significativa alle infiltrazioni di gruppi politici prevalentemente di estrema destra, ma anche di estrema sinistra, si sono aggiunti collegamenti ben più pericolosi con la criminalità organizzata. Oggi dunque servono meno annunci e più prevenzione. Serve soprattutto mettere in campo una cultura sportiva degna di un paese civile, e per fare questo non bastano norme di mera repressione. Serve il concorso di tutti: società, organismi di controllo e gestione del calcio, spettatori, forze dell'ordine, politica. Senza questo vero piano, Atti come quello di Roma certamente si ripeteranno. E così dunque il nostro Daniele Biacchessi sulla situazione dopo le vicende dell'Olimpico. Un'ultima notizia che riguarda la vicenda della quale vi avevamo raccontato nella prima parte della trasmissione, ossia il gesto fatto dal sindaco di Torino Piero Fassino verso un gruppo di tifosi del Torino, un gestaccio, diciamo così, un dito medio. È arrivata una sorta di scusa di Piero Fassino. Un ristretto gruppo di ultras ha ritenuto di aggredirmi e insultare me e la mia famiglia preventivamente, persino con lancio di pietre, cosa che ha provocato una mia istintiva e umana reazione, di cui naturalmente mi rammarico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E sentiamo come sempre a quest'ora Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. La tensione, la guerra civile de facto, le preoccupazioni per l'Ucraina non diminuiscono. Ieri negli show del mattino in America un politico come il senatore Lindsey Graham ha chiesto sanzioni durissime per mettere in ginocchio l'economia di Mosca. Un'inchiesta The New York Times mostra per la prima volta foto a volto scoperto di attivisti russi. Fanno parte dell'esercito regolare di Mosca? No, ma sono molto legati all'esperienza sovietica / russa. Hanno combattuto in Afghanistan, alcuni hanno preso il passaporto ucraino appena un paio d'anni fa, indossavano la divisa sovietica, hanno grande esperienza militare di fuoco al fronte, soprattutto sono armati fino ai denti, organizzati, con divise perfette. Chi gliele ha date? Un fatto è certo, il nazionalismo russo è il motore dietro la spaccatura di uno Stato, l'Ucraina, dietro l'obiettivo di cancellare le elezioni il 25 maggio, e credo che Mosca ci riuscirà. Ma mi chiedo perché questo attivismo russo? Beh, c'è stata una column sul New York Times di Roger Cohen, dice: il nazionalismo di Vladimir Putin copre un declino demografico inesorabile, una corruzione dilagante a Mosca, un potere giudiziario inaffidabile, una stampa col bavaglio e minacciata, oligarchi che devono tutto al Cremlino, un'economia a pezzi. Ecco, questa è una fotografia che a me sembra molto chiara, soprattutto per chi prende le difese della Russia che tutela i suoi interessi in Europa. Comunque di questo ne parleremo in settimana, è un film che purtroppo conosciamo, ma parlando di film e di ispirazioni americane, vi dicevo, voglio parlare d'altro e parlo con un grande regista italiano, Marco Bellocchio. Ma questo è il mio ospedale San Giorgio! E fatti, ti sei convertito anche tu! Bella addormentata, uno dei film di Marco Bellocchio che sono stati proiettati al MoMA in una retrospettiva qui a New York dedicata a uno dei nostri registi più importanti. Ecco, Bellocchio per l'occasione è venuto in America. Buongiorno Bellocchio. Buongiorno, buongiorno. Dunque, intanto il MoMA, diciamo, approdare al MoMA è sempre, come dire, gratificante, o sbaglio? Ma sì, penso di sì, oltretutto è una cosa che non ha avuto nessuna sollecitazione da me, nel senso che l'Istituto Luce e il MoMA evidentemente hanno ritenuto interessante fare questa retrospettiva. Io ne sono contento e li ringrazio di questo, insomma, per quello che mi è possibile, sono qui, insomma, per partecipare, per rendermi utile, insomma. Certo. Ecco, volevo chiederle intanto qual è il suo rapporto col cinema americano. Lei, crescendo da ragazzino, vedeva i film americani? C'è qualche film che lei ha visto, che l'ha colpita in modo particolare, che l'ha ispirata, oppure no, e ha trovato una sua strada completamente diversa? Ma io il cinema americano l'ho sempre ammirato da ragazzo, da bambino, dai cartoni animati di Walt Disney, poi tutto un cinema di impegno, i divi, chiaro, insomma, io lo assorbivo e questo mi sicuramente rafforzava anche la mia passione per il cinema e poi indirettamente per farlo, ma io soprattutto sono stato uno spettatore, insomma, un ammiratore dei grandi attori prima e poi anche dei grandi registi. Ma se deve pensare a un film che da ragazzino l'ha colpita, americano, che cosa le viene in mente? Ma io, sa, siccome ho una certa età, ricordo con grandissima coinvolgimento Fronte del Porto, la scoperta di Marlon Brando, oppure la Valle dell'Eden, James Dean. What do you know about your mother? I know where she is, know what she is, and I know why she left you. Couldn't stand it. You didn't really love her any more than you do me. Ecco, questo era uno spezzone della Valle dell'Eden con James Dean, e devo dire che lei è andato direttamente a segno, perché già allora, insomma, James Dean rappresentava una rottura contemporanea, era un ribelle, era un giovane che guardava in avanti più che guardare indietro, no? E quindi dava queste forti sensazioni sia per la storia del film sia per il ruolo dell'attore. Ecco, io ho come la sensazione che più recentemente, negli ultimi anni, se vediamo i film americani, per esempio, che hanno vinto i premi Oscar, sono dei film che guardano più indietro, sembra, che avanti. Per esempio, quest'anno ha vinto 12 anni schiavo. Sì. L'anno scorso Argo, che ricostruiva la vicenda degli ostaggi americani in Iran a cavallo del 1978. E poi, prima ancora, ha vinto The Artist, molto bello, una bellissima storia, molto romantico. E poi però, prima ancora, Il discorso del re, insomma, andiamo addirittura negli anni 35-40. Sì. E poi, per arrivare a un film che dava un impatto contemporaneo, dobbiamo andare al 2010 con Hurt Locker, dove la Bigolo, insomma, ha portato alla ribalta un tema della guerra, ma visto in modo molto contemporaneo. Ecco, secondo lei c'è... vede un distacco rispetto a quello che era, diciamo, un impegno più contemporaneo del film americano nel passato rispetto ad oggi? Il cinema, dal momento che la televisione così si è impadronita inesorabilmente del presente, dell'attuale, anche se poi si occupa anche di grandi fiction al passato, è chiaro che il cinema americano, almeno per come lo vediamo noi, insomma, può essere attratto da un racconto sul passato, come se fosse un territorio più adatto al cinema piuttosto che alla televisione, però poi naturalmente ci sono anche delle eccezioni. E lei quando è che è venuto in America per la prima volta? La prima volta sono venuto nel perché presentai al Festival di New York Nel nome del padre, e poi sono tornato varie volte, soprattutto, no, anche a festival diversi. Una volta andai a Los Angeles, una volta a Chicago, una volta, ma però a New York sono venuto più spesso. Ecco, e quando è arrivato la prima volta, cioè lei che idea aveva dell'America e che idea si fa dell'America? Cioè, come vive l'America? Il punto dei cineasti italiani è sempre quello di guardare alla possibilità dell'americanizzazione. Effettivamente, se voglio conquistare il mondo da un punto di vista cinematografico, devo venire negli Stati Uniti, e alcuni lo hanno fatto e alcuni ci sono anche riusciti. Questo tipo di idea, di progetto, di conquista, possiamo dire, tra virgolette, no, io non ce l'ho mai avuto, insomma, nel senso che io ho capito che quello che potevo fare da cineasta, dovevo conservare le radici della mia cultura, della mia società, della mia patria, ecco, e delle mie idee, ecco, in questo senso. Per cui effettivamente guardo, ho qui davanti un grattacielo che non finisce mai, insomma, è un mondo che guardo con stupore, però che su cui faccio un po'... Non ho mai fatto il conto di americanizzarmi più di tanto, ecco.